Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Martedì 24 agosto, il mese più incredibile dell'anno sta volgendo al termine. Manca davvero poco alla rinascita di settembre, al ritorno a casa, alla fine delle vacanze. Sì, se non ve l'ha ancora detto nessuno, sappiate che le vacanze stanno finendo. Se siete ancora in vacanza, non prendetevela, tutto prima o poi finisce, non dobbiamo farne un dramma. E se non siete mai partiti, meglio ancora. Sappiate che anche quelli che sono partiti stanno per tornare. E stanno per tornare più leggeri nel portafoglio, ma più pesanti nel bagaglio. Avete notato come all'andata per tutti la valigia sia compatta, precisa, come ci stia tutto a meraviglia, prima, mentre al ritorno non si riesce mai a ripristinare lo status quo del vostro trolley. Il trolley in vacanza muta, non si sa come mai. E non è solo una questione di disordine, come alcuni di voi staranno pensando e come potrebbe pensare anche mia madre, ma anche di aumento di cose che ci vogliamo stipare dentro, perché in vacanza si fanno sempre un sacco di acquisti e a volte la situazione ci sfugge di mano. Quanti souvenir avete deciso di portarvi a casa quest'anno? Soprammobili, gioielli, vestiti, arazzi, scarpe. Quanto avete speso quest'anno o quanto avete speso negli anni? Vuoi dire che ho speso la bellezza di $40,000 per comprarmi qualche paio di scarpe e ora non ho dove vivere? Oh santo cielo, sarò ridotta letteralmente ad abitare nelle mie scarpe. Quante paia di scarpe avete comperato nella vostra vita? Io non sono ai livelli di Carrie, lei che parlava era Carrie di Sex and the City, in quanto a soldi spesi almeno, ma come numero secondo me ci sono vicina. Fra l'altro anch'io potrei benissimo vivere nelle mie scarpe. Oggi parliamo di acquisti sconsiderati, che di solito aumentano quando si è in vacanza perché siamo più predisposti a farci prendere la mano. 800 24 00 24 per raccontarci delle vostre spese folli d'estate e 349-238-6666 per i vostri sms. Quante volte avete acquistato in maniera compulsiva cose di cui non avevate nessun bisogno? Quante cavigliere, quanti pareo, quanti braccialettini con i sonagli messi solo un paio di settimane e poi dimenticati in un cassetto? Parlo soprattutto alle donne in ascolto. Quante di voi, anche quest'anno, hanno acquistato l'anello da piede? Sì, l'estate è veramente il momento migliore per dare sfogo all'acquisto assurdo e di solito c'è sempre di mezzo l'abbigliamento. Un abito nuovo è una promessa di felicità e lo dico a tutti i fidanzati o mariti che sono all'ascolto, per giustificare in un certo senso questa follia delle donne di acquistare sempre qualcosa di nuovo. Perché avere nell'armadio un abito che ancora non abbiamo indossato, ma che sappiamo che prima o poi potremo avere l'occasione di mettere, e quanto di più emozionante ci sia per una donna. A quante di voi sarebbe piaciuto vivere questa situazione? Avete qualcosa in questo negozio che sia bello come lei? Oh sì. Oh no. No, no, no, no, no. Io dico che abbiamo molte cose che sono belle come lei le vorrebbe. A questo concetto volevo arrivare. E su questo non c'è dubbio. Per questo scusi, sai che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere molta gente a disposizione. Cosa? E le spiego perché. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro. E abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro perché ci teniamo, capito? Oh, signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok? Ok. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Una cifra spudorata, spudoratamente alta da spendere, che brivido è il solo pensiero. 800 24 00 24 per raccontarci dei vostri brividi e dei vostri acquisti sbagliati o meno e 349 238 6666 per i vostri sms. Quante volte avete dato la carta di credito a vostra moglie permettendole di farne scempio? O quante volte vi è capitato di fermarla proprio prima che commettesse il reato? E io pago! Siete anche voi dei shopaholic, dipendenti dall'acquisto compulsivo, termine anglosassone per definire le persone che appunto hanno la dipendenza dallo shopping, dove arriva la necessità e dove invece il disagio, il desiderio di accumulo, di collezionismo. Lo shopaholic è un disturbo comportamentale che presto sarà inserito nella Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, la Bibbia dei disturbi mentali. Ma come si riconosce il compratore compulsivo? Di solito gli oggetti che si acquistano durante una crisi d'astinenza, perché si chiamano proprio crisi di astinenza, sono spesso inutili, a volte non corrispondono nemmeno ai gusti dell'acquirente. Si verifica spesso anche la ripetitività dell'acquisto di un certo tipo di prodotti che vengono comperati in maniera seriale, come se fossero tanti tasselli di un mosaico che noi dobbiamo completare, qualcosa che ci manca. A me, per esempio, cioè, ho avuto un periodo in cui comperavo sempre solo maglie, magliettine, comunque cose sopra. Il mancato acquisto, invece, nel caso del shopaholic, causa tristezza e depressione. E io mago! C'è una differenza di genere anche tra i compratori. Le donne di solito si sentono appagate con vestiti, oggetti gioielli o strumenti di bellezza o creme di bellezza o cose di questo genere. Anche agli uomini piacciono i prodotti legati alla cura del corpo e i vestiti, ma di solito sono più orientati all'acquisto di attrezzature sportive, le automobili, i computer, gli impianti audio e video. Sembrano una serie di luoghi comuni, ma è la verità, perché il luogo comune è un luogo comune ma ha un fondo di verità. Insomma, uomo-donna cambia l'oggetto, ma ciò che muove il comportamento ossessivo è sempre lo stesso. Una gratificazione istantanea che ci può servire a superare delle frustrazioni. E c'è sempre un modo, chissà perché gli shopaholic trovano sempre un modo per convincersi che il più inutile, scusate, degli acquisti è un affare da non lasciarsi sfuggire, se non addirittura un investimento. Perciò ci sembra veramente tutto fantastico, non possiamo veramente farci sfuggire l'occasionissima. E poco importa se poi ci sarà il senso di colpa o se l'estratto conto farà paura. Posso essere utile? Forse. Starei cercando un regalo per la signora. Avevamo pensato a dei brillanti, ma senza offese, la signora ritiene che i brillanti a volte fanno cafona. Oh, stanno divinamente alle signore d'età, ma credo che per me non siano adatti, capisce? Oh, certo. Per la verità c'è anche un altro problema, quello finanziario. Siamo infatti in grado di spendere solo una somma limitata. $10. $10. Sì, appunto, questo è il massimo. Francamente, signora, per questa cifra la scelta direi che è piuttosto ristretta. Però qualcosa dovrebbe esserci, vediamo. Un oggettino di puro capriccio, per chi ormai abbia tutto il resto. Un formanumero telefonico in argento, a 6,75, tassa federale compresa. Da cifre sfacciatamente alte di prima di Pretty Woman a cifre sfacciatamente basse come questo di colazione da Tiffany. Niente di brutto può capitarti da Tiffany, il negozio di gioielli dove Audrey Hepburn va a fare colazione. Qui si vede per la prima volta in questo film il concetto del negozio come una seconda casa, come un luogo dove sentirsi meglio, dove farsi passare le paturnie, come le chiama sempre Audrey Hepburn nel film. Ed è un concetto molto diffuso oggi, dove nei negozi si passa davvero molto tempo e non si va solo per cercare l'oggetto da acquistare, ma si va anche per trovare un po' di conforto dalla roba che ci circonda. Qual è il vostro oggettino di puro capriccio? E 16 agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di acquisti dell'estate, di shopping estivo, di compere sconsiderate o compere oculate. 800 24 00 24 per raccontarci delle vostre compere oculate o meno e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Max mi scrive: mia moglie ha un vestito che le ho regalato 2 anni fa a Capri, 3.500 euro e non l'ha ancora mai messo. Sì, siete anche voi ammalati di shopping, avete voglia di raccontarci delle vostre spese, di quello che avete comprato in vacanza o di quello che comperate anche durante l'anno, ma che di solito poi dimenticate in un cassetto o non riuscite a mettere per qualche motivo. 800 24 00 24 per raccontarcelo in diretta. Detto che in vacanza le spese sono già comunque alte, come emerge da un'indagine della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, dei 32 miliardi di euro spesi complessivamente dai turisti nel quadrimestre giugno-settembre, ben 11 sono concentrati nel mese di agosto. E io mago! Ma quando si tratta di fare le spesucce, che se le chiamiamo spesucce fanno un po' meno paura, gli acquisti di souvenir, di ricordi, di suppellettili o i vestiti tipici del luogo dove siamo stati, si cade in tentazione, non c'è c'è niente da fare. Noi abbiamo pensato come è possibile trovare una tecnica di sopravvivenza che faccia al caso nostro, che faccia al caso appunto di delle persone che hanno questo shopping compulsivo. Abbiamo pensato che forse la provenienza geografica può essere un deterrente. Che ne dite dei liguri? Luoghi comuni, lo so, ma i luoghi comuni sono rassicuranti. E così abbiamo al telefono con noi un ligure doc, qualcuno che ce l'ha scritto nel DNA come spendere poco, come fare economia. Dario Vergassola. Ciao Dario. Buongiorno a tutti. In quanto ligure credo di essere, diciamo, attrezzato per l'argomento. Eh sì, infatti ti abbiamo chiamato per questo, perché la provenienza geografica nel tuo caso è già una tecnica di sopravvivenza per l'acquisto. Okay. Lo è anche dal punto di vista poi sentimentale, amoroso. Io ho tantissime tecniche, ma poi mi chiami Radio 24, Radio della Confindustria, a parlare con me di economia. al posto di Oscar Giannino ne sono affascinato. Ma senti, ma raccontaci la tua tecnica di sopravvivenza per non acquistare tutte queste cose inutili che di solito si acquistano in estate, a parte il fatto di non tirare fuori il portafoglio. Guarda, io ci sono tutte queste cose che vanno dai racchettoni alle cose più terribili, quelle cose in plastica orribili, terrificanti, che quando li gonfi vengono fuori al mare e ti ritrovi con i tirannosauri, queste cose qua. Poi sono quelle brutte figure terribili quando compri questi gommoni che li tiri fuori dalla soffitta piuttosto che dal garage, ci levi tutta questa polvere di sopra, questo borotalco, e cioè lo gonfi e poi hai scoperto che stai gonfiando la bambola gonfiabile. Hai sbagliato l'oggetto. Io sarei molto attenti. Io comunque, per rendere la situazione anche più equa e anche soprattutto a livello economico non spendere dei soldi a vanvera, io approfitto dell'estate e in queste code infinite che ci sono, quando mi trovo verso Rimini Nord, Cesenatico, così, mi fermo e mi metto a trattare come se fosse un souk di questi algerini l'acquisto di pneumatici da neve, catene e roba per cose fuori stagione, insomma. Sì, perché se uno compra adesso, agosto, a 40 gradi, si mette a comprare le catene da neve per la macchina, anche se non vanno bene per la tua macchina, che poi tanto potrebbero andare bene per un tuo amico, diventa una bella situazione. Secondo me guadagna, risparmi molto, e mentre gli altri sono in coda a soffocare, ti metti lì e compri queste cose che poi per l'inverno verranno utili. Benissimo, mi sembra un'ottima tecnica di sopravvivenza. Ma sei ancora in giro con il tuo spettacolo Sparla con me per le piazze d'Italia, vero? Sono ancora in giro di me a fare questa cosa qua, nessuno ancora mi tira niente. con l'anziana Dandini, che poi sono, sai che a fine settembre la tirano fuori da una specie di cavò e con una specie di phon la sbrina e ce la ridanno un po' intera. E sai che per sapere quanti anni la Dandini gli ha fatto fare il carbonio 14 di Aris di Parma, ma non sappiamo quanti anni ha. E poi ricominciamo a Parla con me, che quest'anno è stato abbastanza faticoso a riniziare, ma ce l'abbiamo fatta. Fine settembre, primo ottobre ricomincia a Parla con me. Benissimo, Dario, sei stato fantastico. Grazie mille per le tue tecniche di sopravvivenza su come non subire lo stress da acquisto. E poi non vi dico quanto risparmio sessualmente non fidanzandomi con nessuno, così non devo regalare niente a nessuno. Ti chiamiamo per la prossima puntata, allora. Grazie mille. Ciao. State bene, ciao. Quando sono all'alba col telefono chiamavo e sì, prenderò questo pezzo della mia felicità. Se lo vuoi posso darti aspirazione in genità. Dimmi tu quanti soldi può valere la mia età. Ora che ho smarrito insieme a lei l'amore, in cambio dimmi cosa puoi darmi tu. Cosa? Se poi ci metto sopra la sua infedeltà. 800 24 00 24 per parlare con noi dei vostri acquisti in estate, per raccontarci le vostre storie di compere inutili, compere decisive, di affari che avete fatto o di compere che si potevano anche evitare. Tecniche di sopravvivenza per non farsi schiacciare dai saldi, dal prezzo stracciato, dal must dell'estate che non potete non avere. 349 238 6666 per i vostri SMS. Una ascoltatrice ci dice: non sono una consumista, compro il necessario e sto benissimo. Si legga Io non compro di Judith Levin. È interessante. Anna di Rivoli, grazie mille per il consiglio. Li avete comprati anche voi, a proposito di must dell'estate quest'anno, i sandali che sembrano degli stivaletti ma che vi lasciano le dita scoperte? Sì, la caviglia sta al caldo ma l'alluce è al fresco. Estate 2010, l'estate degli stivandali. Io sinceramente ho resistito. Ma visto che l'abbigliamento sembra essere quasi l'unica cosa che abbonda nei nostri armadi, se non sapete che cosa fare delle vecchie maglie, dei maglioni che si sono infeltriti e adesso vanno bene a vostro nipote, dei vestiti che avete comprato ma che proprio non vi piacciono, che non ve li volete mettere, o volete far sparire le cravatte inguardabili di vostro marito, sono arrivati quelli di Sisters in Law, 99% di Eco Dress. Loro recuperano i vecchi abiti, soprattutto lana, magari con l'avvicinarsi dei cambi dell'armadio e cambio stagione per l'inverno vi può servire. Loro ridanno vita ai vostri capi. In base al numero di pezzi che volete rottamare, perché di rottamazione si tratta, vi fanno un buono sconto sull'acquisto di una nuova creazione. Per informazioni, Sisters in Law, inteso come cognati in inglese, @gmail.it, oppure c'è anche un numero di telefono 335 6396 033. E io pago! C'è però anche chi ha trovato il modo di trasformare un materiale che potrebbe sembrare per tutti assolutamente estivo in qualcosa che può funzionare tutto l'anno. Si tratta delle vele, le vele delle imbarcazioni, vele usate, che a tutti fanno subito pensare al mare, al lago, al vento, ma che Elena Filippini è riuscita a trasformare in borse e borsoni con Kev Love, ed è con noi al telefono. Ciao Elena! Ciao Morena. Allora, come ti è venuta questa idea di trasformare un tessuto che appunto si usa per le barche, si usa per la vela appunto, in qualcosa che può diventare buono per tutto l'anno e quindi può trasformarsi in qualcosa di diverso? Ma in realtà è stato casuale e non troppo casuale. Io sono figlia di un velaio e appunto sul lago di Garda abbiamo una piccola veleria e da lì una sera dovevo uscire per un evento e mi sono creata una pochettina semplicissima. Il successo da parte degli amici che hanno iniziato a richiedere questo tipo di oggetto, e pian pianino mi sono così tolta dalla veleria e dedicata poi a questo tipo di riutilizzo delle vele, dei tessuti da vela e da nautica in generale. La tua linea si chiama Kev Love, ma Kev Love sta per? Ma in realtà è nato da una chiacchierata con una cara amica pubblicitaria, giocando un po' con i nomi dei tessuti velici. Kev sarebbe per Kevlar, che è appunto un tessuto laminato molto in voga, soprattutto negli anni '80, appunto per quanto riguarda le vele in generale, e Love è l'amore con cui è nato questo progetto e la passione che ancora adesso lo regge. Dove le vendi? Le possiamo trovare dove queste borse? Ma le vendo nel laboratorio appunto di famiglia, che è appunto sul lago di Garda, in un piccolo paesino che si chiama Garniano, che si affaccia proprio sul Garda, sull'acqua. E poi giro per l'Europa facendo delle fiere, sono presente a Berlino, sono presente a Milano, gli artigiani in fiera, ho qualche punto vendita in Germania, sull'isola di Salina, Milano, ecco, qua e là sparsi ho qualche punto vendita. Bene, quindi il tuo è un acquisto d'estate, ma che appunto può andare bene anche per tutto il resto dell'anno. Assolutamente, in realtà è nato proprio per accontentare così la voglia di avventure, di viaggio che le persone possono avere in particolar modo d'estate, ma continua invece nell'inverno, perché se ne pensiamo alle vele d'epoca di colore marrone scuro con i colori appunto un attimino più caldi, la stagione, mm-hmm. Esatto. Riusciamo a accontentare anche quel tipo di bisogno. Certo, allora una piccola tecnica di sopravvivenza che tu hai adottato negli anni per superare agosto, visto che si chiama Agosto Tecniche di Sopravvivenza il nostro programma. Ma da parte mia una grande pazienza, perché al contrario delle città il lago si popola in estate, soprattutto in agosto, quindi non siamo abituati alle code, al traffico, come posso dire, a questo tipo di situazione. Certo, quindi lo stress quindi dell'affollamento, va bene. Grazie pazienza. Perfetto, grazie mille Elena, ciao. Un allora. Saluto, ciao Morena, ciao. Ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:31, oggi ad agosto tecniche di sopravvivenza, si parla degli acquisti dell'estate. 800 24 00 24 per raccontarci di come avete speso i vostri soldi quest'estate e i vostri messaggi al 349 238 6666. Tecnica di sopravvivenza di uno dei nostri ascoltatori: basta girare senza portafogli. Oppure Chiara che ci scrive: mio marito ha trovato un sistema per contrastare gli attacchi di shopping compulsivo. Quando trovo qualcosa di cui non posso fare a meno, mi chiede se ne ho bisogno. Talvolta funziona. E adesso parliamo con Stefania da Genova. Ciao Stefania. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Raccontavo prima che Io anche sono afflitta da questo shopping compulsivo, soprattutto durante le vacanze. Compro cose che poi a casa non metto. E allora, nonostante sia sposata da 25 anni, mio marito ha coniato questo detto quando parla con gli amici e dice: se tu hai una moglie tossicodipendente o alcolista, la ricoveri nei posti addetti, ma se tu hai una malata di queste cose, dove la metti? Cosa ne fai? A distanza di tempo non ci è riuscito, perché io riesco sempre a trovare un qualche cosa che mi mancava e che poi a casa comunque spesso non uso. E adesso a 50 anni credo che farò un pochino più di attenzione alle mie prossime spese. E quindi la tua tecnica di sopravvivenza è che non ne hai nessuna in realtà. Di non farmi tentare. Ci provo. Però ho due nipotine piccole che me li segnalano, quindi non garantisco, se guarisco io si ammalano loro. Grazie mille Stefania, ciao, a presto. Ciao. Ma vediamo anche quanti soldi si sono spesi nella storia per acquisti più o meno utili. Agosto 1456 viene completata la stampa della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato in Europa con l'aiuto dei caratteri mobili. Acquisto estivo, ma buono tutto l'anno. 24 agosto 1912. L'Alaska diventa un territorio degli Stati Uniti. Alla faccia dell'acquisto estivo. 24 agosto 1995. Primo giorno di vendita del sistema operativo Windows 95. Nello spot pubblicitario di lancio in America, la canzone di sottofondo era Start Me Up dei Rolling Stones. 8 tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di acquisti in estate. 800 24 0024 per raccontarci del vostro shopping estivo e 349 238 6666 per gli sms. Ne è arrivato uno molto bello che dice: la più attuale tendenza a moderare l'acquisto rispetto al recente passato delle vacanze grasse ci ha reso più riflessivi, più creativi. Forse è un modo per accorgerci che la bellezza degli oggetti è nei nostri occhi ed è un valore che può avere una vita più lunga dell'intervallo tra un acquisto e l'altro. Vilma. Oculatezza o shopping compulsivo negli acquisti, qual è la vostra tecnica di sopravvivenza per resistere al richiamo della carta di credito? Siete degli spendaccioni? Però se si parla di acquisti e si è verso la fine di agosto, come siamo noi adesso, non si può non pensare a certi acquisti. L'inizio del campionato di calcio è prossimo, è previsto per il prossimo fine settimana e giovedì dedicheremo un'intera puntata a questo. È come non farsi sfuggire, insomma, gli acquisti sbagliati o meno che si sono fatti in fatto di calciatori. E ne parliamo con Carlo Genta, conduttore di A Tempo di Sport e Palla Spicchi, che ci aiuterà a capire se si può parlare di acquisto compulsivo anche nel caso del calcio, se ci sono gli spendaccioni o al contrario i tirchi anche in questo caso. Ciao Carlo! Ciao Morena, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora. Ho apprezzato molto i Rolling Stones prima, più della sigletta. Beh, sì, effettivamente. Senti, ma acquisti sbagliati in fatto di sport, abbiamo parlato del campionato di calcio, raccontaci qualcosa. Sì, ma innanzitutto ti posso raccontare che oggi leggevi i giornali, c'è questo tentativo del Milan di prendere Ibrahimovic. I tifosi milanisti sono in crisi d'astinenza quanto ad acquisti, e tu dicevi acquisti sbagliati. Beh, non si può dire che Ibrahimovic sia in valore assoluto un acquisto sbagliato, perché è un fuoriclasse assoluto, però pensa, al Barcellona l'anno scorso l'ha pagato 87 milioni di euro all'Inter, affare colossale per l'Inter in quel caso, in cui è rientrato anche tu, altro acquisto corretto della scorsa estate. Adesso il Barcellona chiederebbe al Milan 40 milioni di euro, fai due conti, 47 milioni di differenza possono essere sufficienti a definirlo acquisto sbagliato. Tu cosa dici? Ma non lo so, comunque, sai. Sai, giochi, è il giochino dell'estate, no? È chiaro che per i tifosi gli acquisti sono gratis, perché i soldi alla fine, nonostante sia anche periodo di acquisti, di abbonamenti per i tifosi delle squadre, e i tifosi delle squadre pure in vacanza devono pensare: ma quest'anno l'abbonamento lo rinnovo o non lo rinnovo? E molto dipende dagli acquisti delle loro squadre. Il Milan è in piena austerity, come saprai. Però è chiaro che questo acquisto eventuale, ipotetico, di Ibrahimovic potrebbe insomma avere grandi riflessi anche sull'acquisto di abbonamenti da parte dei tifosi o sull'acquisto di partite televisive da parte dei tifosi, perché anche quello è un mercato, anche quelli sono acquisti estivi. Per quanto riguarda gli acquisti sbagliati, sarò forse un po' cattivo, però basta dare un'occhiata alla galleria degli acquisti degli ultimi anni della Juventus, uno più sbagliato dell'altro e tutti acquisti molto costosi, a partire da Thiago, a Poulsen, eccetera eccetera. Vediamo se quest'anno la Juventus ha invertito la tendenza. Io credo di sì, però ha speso molti soldi nelle ultime estate, Morena. Senti Carlo, ma come si fa quando si acquista un abito sbagliato? Insomma, ci rendiamo conto, arrivati a casa, che non ci piace più o non è la taglia giusta. Si ritorna al negozio e si dice: scusate, ho sbagliato, vi voglio ridare il mio abito, ne voglio prendere degli altri. Ma come si fa per un calciatore? Cioè, si può riportare al negozio? No, lì lo scontrino non te lo danno, lì vogliono i soldi, non ti danno lo scontrino e non si può effettuare il cambio merce, nemmeno se la taglia è sbagliata. No, se tu fai un acquisto lì te lo devi tenere, insomma, devi solo sperare che... devi avere, sai, lì è molto importante avere delle persone che ti aiutano nello shopping, nel caso del calcio o degli altri sport. I direttori sportivi sono una figura centrale ormai dello sport, quindi spetta a loro e agli allenatori decidere se il giocatore è giusto e ok, il prezzo è giusto, lo compri, niente scontrino, e se non va bene te lo tieni, l'anno dopo hai saldi, ci perdi un sacco di soldi, come rischia di capire, perché sono anche i saldi in questo momento, ci sono anche i saldi, è anche tempo di saldi, come no. Fantastico. Infatti, senti, Ibrahimovic a 40 milioni sarebbe un saldo, Ah, però, vedi, i saldi, che è un altro concetto di saldi. Senti, ma invece altri acquisti sbagliati, visto che tu sei un specialista nel basket o in qualche altro sport, noi si parla sempre di calcio, ma magari ci sono acquisti giusti o sbagliati anche in altri sport, naturalmente. Ah, non c'è dubbio, anche in altri sport ci sono acquisti giusti o sbagliati, ma sai, nel basket ormai, per come è il mercato del basket, i giocatori si cambiano come i costumi in spiaggia, con grandissima rapidità, e quindi però anche in quel caso ci sono stati nel recente passato alcuni acquisti forse sbagliati, ma certamente molto costosi. Ad esempio l'Armani un paio di stagioni fa aveva Armani, che ha speso molti soldi, più di tutti una specie di Juventus del basket per quanto riguarda il mercato degli ultimi anni, in questa continua rincorsa verso Siena, che quest'anno ha fatto molti acquisti, ha cambiato molto, dice il suo boss Minucci, hanno speso meno, se sono ugualmente competitivi lo scopriremo presto. Per quanto riguarda Milano, un paio di stagioni fa aveva puntato tutto su un giocatore italiano emergente che adesso è in nazionale, è ancora in nazionale, certamente è un prospetto, certamente è un bravo giocatore, ma Milano aveva puntato tutto su Vitali, che non ha reso quanto previsto, gli hanno fatto un contrattone triennale, è durato solo un anno, e poi anche lì il prezzo di saldo è andato a Roma, e quindi si può dire che è stato un acquisto sbagliato, anche se, ripeto, è un giocatore italiano che resta comunque molto interessante. Certo, nel basket, sai, è più facile, no? Certo. Effettivamente è come riportare il giocatore al negozio, perché senti, soprattutto con gli stranieri, con gli americani. Carlo, tu hai esatto la tua tecnica di sopravvivenza, che cosa, qual è per questi acquisti sconsiderati che si fanno soprattutto in estate? Ma ti riferisci a... Ma no, anche tu al valore assoluto, non riferito allo sport, perché ovviamente penso che tu non acquisti o venda calciatori o giocatori, però legato alle piccole cose. Ma la mia tecnica di sopravvivenza è un po' come quella dei, insomma, dei club sportivi, no? Ci rifletti bene e poi fai gli acquisti che ti puoi permettere, perché alla fine sono quelli. Io sono abbastanza spendaccione, però insomma di questi tempi bisogna anche essere oculati. Poi è tempo di vacanze, bisogna accontentare i bambini, sono mille cose da considerare. Per fortuna in quel caso non è come per i calciatori, lì se qualcosa non va tieni lo scontrino in tasca alla fine lo e cambi, puoi cambiare. Grazie mille Carlo, ciao. A voi un abbraccio, ciao, a presto. Allora, qualche sms a proposito delle vostre spese in estate e di quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza al 349-238-6666. Paolo mi scrive: mia moglie va in vacanza 2 mesi e io per vincere la solitudine compro abbigliamento soprattutto per lei. Bravo Paolo. Oppure c'è Antonio da Torino che dice: girando per centri commerciali ho comperato tante polo, maglie e pantaloncini in offerta per 10 anni, adesso sono a posto. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:45, oggi si sta parlando di spese in estate, di shopping compulsivo, di tutte quelle volte che avete speso senza pensarci troppi soldi. 800 24 0024 per parlare con noi in diretta e 349-238-6666 per i vostri messaggi. E adesso abbiamo Angelo da Milano. Ciao Angelo. Sì, ciao. Ciao, allora qual è la tua storia con lo shopping? La storia con lo shopping è che per molti anni ho avuto un sintomo di questo tipo. Fin da ragazzo mi piaceva comprare dischi, tipo i bei LP con quella copertinone meravigliosa. Uh-huh. E già lì avevo sviluppato un po' di disagio. Dopo, quando sono stati i CD, è successo questo. Cioè io entravo nel negozio con proprio l'ansia di comprare qualcosa e dopo 2 o 3 minuti mi viene un mal di pancia, una crisi intestinale tale. Ma per l'acquisto? Ma perché dovevi comprare? Perché dovevi comprare? Perché il vedere talmente tanta merce che corrispondeva ai miei desideri mi scatenava una pulsione all'acquisto, alla curiosità, alla scelta, eccetera. Insomma, dopo 2 o 3 minuti dovevo scappar via e andare nel bar più vicino, dove naturalmente mi andavo in bagno, ma poi il sintomo cessava e non succedeva niente. Il problema era che questo o mi faceva fare un acquisto sbagliato, perché la fretta mi faceva scegliere l'ansia, sbagliato, certo. O se no mi faceva scappare via prima di aver acquistato. Questa roba qua... Un disastro. Un disastro, da una parte risolta dall'acquisto online. Tu stai dicendo, vedi, bravissimo, acquisti. Tecnica di sopravvivenza fantastica e questa. E poi comunque sei a casa o in ufficio, hai il bagno vicino, quindi problema c'è. Ma poi, però, quando c'è un acquisto di un certo rilievo che riguarda un po' il desiderio, il mal di pancia viene sempre. Caspita. Quando ho comprato l'iPhone è stato un disastro, e adesso per parlare di acquisti estivi ho dovuto comprare la moto prima dell'estate, un mal di pancia, per fortuna che la moto era veloce. Senti, ma anche a parlarne ti viene questo disagio? Adesso, infatti mi devo fermare. Infatti ti saluto, ciao Angelo, ciao, grazie. Oggi parliamo di acquisti in estate, di quegli acquisti che si fanno e di quali possono essere anche i disagi che causano, come abbiamo sentito Angelo da Milano. Ma voi quando è che avete fatto quell'errore proprio, che non volevate comprare quel tailleur, quel divano, quel quadro, quel set di creme per il corpo, ma avete comunque messo mano al portafoglio? Quando è che vi siete sentiti vittime delle cose, dell'accumulo, del possesso? Sai cos'è un piumino? Una trapunta. Una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo? Siamo consumatori. Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia. No, no, sono solo oggetti. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Eh sì, le cose alla fine ti possiedono. E per chi invece si sentisse al riparo da tutto ciò e volesse possedere le cose che hanno posseduto altri, ci sono le aste. Il 20 e il 21 agosto c'è stata l'asta online con gli oltre 1000 oggetti legati ai personaggi delle 6 stagioni di Lost, la famosissima serie TV. C'erano le mutande di Sawyer, l'orsetto di Emma, la bussola di Loxolo, per citarne alcuni. Ma avete mai partecipato ad un'asta voi? Numero 110 del catalogo, un salotto intagliato e dorato Luigi XV. Vogliamo partire da una base di $7,000? Chi ci dice che non sia falso? Ne ha tutta l'aria. Beh, una cosa è certa, lei non è falso, è un idiota autentico. Grazie. Vorrei suggerire al signore di volersi compenetrare della nostra procedura. Bene, attacco da 8. 8,000, grazie. 9,000? 10,000 il signore. A 11? 11. Siamo a 11. Chi offre 12? 12. Grazie. L'offerta è 12. Chi offre 13? Nessuno 13? $13. Vuol dire 13,000? No, no, dico $13 e non vale di più. Che emozione che deve essere partecipare ad un'asta, anche se qualcosa è cambiato, in meglio ovviamente. Nel terzo millennio le case d'asta più blasonate hanno deciso di cambiare modalità, di aggiornarsi. E ne parliamo oggi con Clarice Pecori Giraldi, Managing Director della casa d'aste più antica del mondo, Christie's. Buongiorno dottoressa Pecori Giraldi. Buongiorno. Come è cambiato il modo di fare aste nella casa d'asta più antica del mondo come Christie's? Allora, la cosa principale che è cambiata è la tecnologia. Noi siamo diciamo l'unica casa d'asta al mondo alle cui aste si può partecipare in diretta, cioè mediante una registrazione precedente e poi un collegamento. Ma quindi via internet? Via internet, però diciamo che invece nel mese di agosto ci sono poche aste. Il mese di agosto invece è molto dedicato a tutti quelli che fanno ricerca, nel senso che durante l'inverno non hanno tempo di cercare, di guardare, di decidere anche un mobile come lo vogliono, le dimensioni, il prezzo, l'epoca, che cosa potrebbe piacere, potrebbe star bene in casa. E invece adesso tutto questo servizio tecnologico, che ad esempio si trova sul nostro sito christie's.com, dove lei può richiedere un tavolo lungo 1 metro x 2 che costi 1,000 euro ad esempio, lei si prepara e poi durante l'anno noi la avvisiamo, cioè ovviamente il computer, diciamo il sistema, l'avvisa di quando quella certa cosa che proprio lei stava cercando appare sul mercato. Per cui è un mese di facciamo il punto della situazione, che cosa mi piacerebbe. Ma è vero che i clienti sono soprattutto uomini? In generale nelle aste gli acquirenti sono prevalentemente maschili, è vero. Sono prevalentemente maschili. Secondo lei la motivazione? Ma perché di solito diciamo quelle che fanno acquisti compulsivi sono di solito le donne, o quelli che spendono molto sono le donne. In realtà all'asta ci sono spesso degli uomini. Dunque, prima di tutto penso che sia anche legato al fatto che le case d'aste più antiche al mondo sono anglosassoni e è inutile negarselo, il mondo anglosassone è assolutamente un mondo maschilista, per cui c'è una consuetudine molto legata anche al battitore, ci sono molti più battitori uomini di donne ad esempio, per cui penso che sia un'abitudine. Ho capito, qualcosa che è più legato alla tradizione che non... Esatto. Ho capito, ma nelle aste online, quindi nel fatto che io possa partecipare anche in questo modo, in questa maniera tecnologica, non mi fa perdere un po' il fascino del battitore con il martelletto, di queste sale affollate, di questi, almeno quello che si vede, no? Del cartellino. Il divertente di quello che noi offriamo è che lei vede il battitore sul... Lo vedo. Se sono io ad esempio che sto battendo l'asta e lei si connette da New York e io sto battendo l'asta a Milano, lei vede me sul suo schermo e se schiaccia il tasto per dire voglio offrire e a me che sto battendo si accende una luce con la sua offerta, io mi rivolgo direttamente dallo schermo a lei dicendo a lei acquirente online. Ah, ho capito, quindi in realtà non cambia nulla, è semplicemente che sono delocalizzato. Non si può vedere la sala perché ovviamente per motivi di privacy, però invece il rapporto bastitore c'è ancora, ecco, quello sì. Bene, la sua tecnica di sopravvivenza per non subire l'acquisto compulsivo, qual è? Lei che appunto è Managing Director di Christie's Italia, ne ha una? Mettersi un target e non farsi convincere a spostarsi. Ah, ho capito, benissimo, quindi darsi... È la stessa cosa se ci pensa, no? Uno a me l'altro giorno è capitato di andare a uno spaccio di un bellissimo marchio di moda. Ho comprato 3 vestiti, uno mi sta adesso, gli altri 2 mi staranno quando finalmente dimagrisco. Ho sbagliato tutto. Beh, ma in realtà è una promessa di felicità questa, no? Si è data un obiettivo da raggiungere. Grazie mille, dottoressa Pecori Giraldi, a presto. Grazie a lei, arrivederci, buongiorno. E adesso le nostre attesissime tecniche di sopravvivenza. Davanti all'ennesima cosa di cui pensate di non poter fare a meno, cercate di ricordare l'ultimo acquisto azzeccato della vostra vita. 2. Se ci mettete più di 3 minuti a ricordarvi qual era, non è il momento di fare altri acquisti. Mettete la foto di vostro marito nel portafoglio, vicino alla carta di credito. Può fare da deterrente. 4. Se non basta, mettete anche quella di vostra madre. 5. Se ancora non riuscite a frenarvi, mettetene una del vostro direttore di banca. Segnato tutto? Bene, adesso le tecniche di sopravvivenza le avete. Leggo un paio di messaggi che sono arrivati molto divertenti e dice Gabriele da Padova: non sono i grossi acquisti, sono le continue cazzatine che ti fregano il conto. Oppure Fabrizia da Verona: a me succede con i libri, anche se so che non riuscirò mai a leggerli tutti, pur proponendomelo, e se accetto i prestiti poi se non mi piacciono li acquisto. Siamo arrivati alla fine, saluto in regia Roberto Scaltritti che è tornato con noi e ringrazio